briciola! Briciola! Briciola! Attento, bombolino! Bombolino! Momolo, momolo! E beh, Billy! Su che andiamo! Attento, Billy! Billy! Su che andiamo! Briciola, briciola. Tonino, ci sei? Tonino. Tonino. Tonino, briciola. A bombolino Luca Torino, sì sì, attenzione 10 gatto alla base di vostri come a tu allora sta a posto ma non è no si sì, perché non mi ascolti ma sta tu ascolti sì. E poi Emanuele, adesso va bene, sì. Sì, sì, va bene, l'ho tutto pulito con la roba lì, l'ho tutto pulito, ho messo il cavo, l'ho sistemato perché c'era il filo sbucciato pure della rimandazione. Vabbè, però funzionava nel trattore, io vedo che sta pompando forte, non c'è massa più, ma proprio. Ah, no, no, e che cazzo, era 2,5 ampere quello lì. Vabbè che me l'ha lavorato anche Luca quello, però dovevi cazzo prenderli un pulsante per accendere le spene, perché era diretto. Ma lo sai che ti ho aumentato anche la radio? Eh? Ti ho aumentato anche la radio, c'è con la radio molto più alta stai dicendo. Ma è una preficata, Tu sei una bomba, se non ti ho mai sentito uscire così bene. Ehi, andava, dai, meglio così. Meglio così, a tu. Gappa. Sì, no, è un altro pianeta. È vintage, 30 anni fa, che so. Ha una più di 30 anni, che so. Quello lì è, sì, un 30 anni ce li ha. È bucato di funzionare, a voi. Ah, già va bene, già va bene. Va benissimo. Va benissimo. Gappa. Sa, figa c'è la scatola, mi prendono una. C'è una scatola grande. A mia moglie che da sabbia quanto c'è una scatolone. Ah, pulire qualcosa lì. Che cosa, Manuel? Sì, dove siamo andati in piazza di Trulli stavolta. Dobbiamo pulire il garage? Sì, se no è un casino. Vabbè, se c'è roba da buttare ce la buttiamo, non ve ne è problema. Ma che cazzo ti ramuccano i libri che hanno roba da lampare? No, non c'è problema, non c'è problema. Bisogna farlo in questi giorni, perché poi se mi danno le date di quando devo lavorare non ve la posso più a farlo. Compreso. Sì, in questi giorni io non lo so, perché io cazzo già lo sai, o se cosa vale lì e tu sei libero. Sono libero io e magari se la vale lì tu. Cappa, dai. Vabbè, ci mettiamo d'accordo, dai, non c'è problema. Ok, ma piano piano si fa, mi dici quando sei libero, al prossimo mese dovrei essere un po' libero forse. Sì, finito dopo le feste, non avanno, finito le feste, dovremmo. Cappa, cappa. Ma la facciamo dopo le feste, ma piano piano facciamo, durante un minuto. Intanto, se vuoi una parte, già sarà l'altro parco, gli si lampa. Si chiama il numero verde e se ci mette fuori. Quello che c'è la buca tante luce che cazzo, multa, cambio. Quella roba da lampare, non mi valeva bene. Sì, ma tu lo sai che io ho dovuto chiamare a uno per farmi portare via tutto. E perché? Anche per un montone di garraggio che sono magazzino. Ah, se c'è la lontana è un altro discorso. Se c'è la garraggio è un altro discorso. Però se c'è roba di cazzo tavolini che non serve. dobbiamo portargliela su, perché se devi portare tre pezzi per volta, poi devi durare già ma altri tre pezzi per volta. Qua se non esce un giramento di coglione, invece si porta su, dico quella roba la mia e si smaltisce tutto. E che cazzo te la mosche sopra? All'autoparco! E come cazzo fai? Cazzo di uomo toccarlo! Guarda tu, sei in macchina questi bocci. Adesso non bisogna chiamare molto con qualcuno. E non bisogna buttare dentro la porta. Io la macchina non ci sta, tu, cazzo la macchina. Se avevo una moto, io cazzo la poco con roba, lì sei tutto roba grande, a parte la macchina non c'entra neanche. E allora bisogna avere come feste chiamare il motocarro e quello che è si butta via tutto. E a Buglione già è, ma Vincenzo. Ma conosci? Ehi, cazzo abbiamo lavorato anche a sé, ma la sono da onda. Allora chiamiamo a Vincenzo con Buglione. Cazzo, e viaggio ce lo fa lui. Se piglia più poco chiamiamo a Edo. Ma se no prendere se con la volta è... chiamiamo un altro, non c'è problema, quello che ci conviene meglio li chiamiamo. No, lo minimo che devi dare sono 30 euro ma la stessa cosa. Sì, 25 euro, non di più. Ma era bravo Luca. Sì, li piace chi c'ha, non sai chi le fa la daringa, è tu. Solo quello può fare lui. Vabbè dai, rimane un attimo in quell'exio, avanti, che mi ha sempre fatto. Va bene, Emanuele, dai. Fammi sapere, e dopo le feste ci mettiamo d'accordo e cominciamo la parte di tutto. Così lo puliamo, dai. Così lo sistemiamo. Ciao, però la roba che mi serve, boh. Guarda, che ti serve la mettiamo a parte? Questa roba che cazzo tutta la parte, quella roba che non è tua, vedo lì e glielo dici, se da una parte te la lampevo. Tu cioè, che cazzo vuoi dare tutta lì per la lampada, non so cosa devi fare. Io vabbè, molta roba di dell'altra casa, molta roba. Un po' di roba, abboniamo da una parte, intanto già avvisati la moto. Già avvisati, quindi facciamo bene lo spazio e via, metà e metà. Antu, ci sentiamo dopo, è arrivato il Torino. Dimmi tu. Attenzione, canale 10, K, c'è qualcuno? Bomboli. Abbaccia il suo biuvaro là. E Gianni, non senti su. Gianni, non l'ho ancora sentito. Che intanto già ci sarà il segretario in ascolto, poi già riferisce. Ma dai, cazzo, niente, mara guaccia, cazzo. Ma ti pare che la proviamo, dove scherziamo? Cosa, ma le guacche mi sono sempre in giro, tu. Le guacche mi fuggo, mi sono sempre in giro. Ma pure non lo faremo mai, scusami. Ma sto scherzando, noi scherziamo e basta. Ma quando mai uno deve pulire la malizia per uno scherzo? Ma sto scherzando. Raga, cosa ci vuoi fare? Cosa ci vuoi fare? A me è proprio un... Con Gianni, ma cosa, no? No, non ci permetteremo mai, va. Ma mai proprio. E poi, no. Non ce n'è problemi. Tranquillo. Non c'è baruta. Aspetta. Zero. Sì. Hola. Subito mio. Che lucca, non c'è. Ho comprato un succo al Conad, ma... ma buonissima, però di quelli che sono dentro in vetrina, dentro il frigo, perché dico, sono di quelli freschi, proprio ci sente il sapore dell'arancio, il sapore dell'ananas, proprio di quelli proprio belli, sono buonissima. Al naturale ci sono buoni, sì, succo d'arancia. Ho spremuto, non si dice mai. Infatti non cortano nulla, cortano un po' di più cortano. Sì, no, ragazzi, sono buoni. Buonissimo proprio, ti sentono i pezzi dell'arancia dentro, ma buono proprio. Chi si gioca così sane che non ti guarda né male? Devi guardare, devi leggere senza conservanti, all'oasi. Devi leggere nell'etichetta. Cara. No, non ce l'ho sentito più a Giulio, Via che mi manda un messaggio con degli schiaffi a presentarsi. Cappa, hai capito che vuole metterci d'accordo? Me l'ha chiesto stamattina, ha detto che riaccende tutto. Sì, infatti mi ha mandato anche il soprannome. Ehi, magari quell'antenna funziona ancora, mia tu. Sicuramente due. E che faccia Gabriele? Vuole respirare? Sicuramente non posso, forse è un due di stazionario, forse. E appena. Più di 20 anni c'ha. Però mi ha detto che lui una volta l'ha provato e funzionava. Vabbè, funzionava è un conto, è stazionario un altro. Sai che ho visto un'antenna, una boomerang, quella era 2,75, ma lì so di lunghezza, col radialino. Ah, se l'avevo visto anche. E dove? A chilometro, hai visto dove c'è la pizzeria, il parrucchiere, cos'è? Ho capito che stai dicendo. È un cibisso, al primo o secondo piano, non mi pare. Non mi ricordo che c'è di Giuseppe quella. Giuseppe. Quello che è Giuseppe Tornaro. Terrazzino l'ho vista. Poi ho visto quell'altra manto qua, e si è cucchendo però, si sta coricando verso l'interno. Vabbè, cantano i bagni questa manto qua. Ma di solito dovrebbe andare al contrario, perché visto che è maestrale quello che prende di più, e invece si cucchende verso l'interno. Lui mi sta bene stamattina. Ma scommetti che se tu gli metti il PL ora funziona? Ma sinceramente non so neanche di chi fosse quell'antenna lì. Ma è piaciuto tanto bene. Basta che il tubo sia buono, non c'è bisogno di l'antenna di nulla. Ma appunto, cantarli vecchi per il chilometro, io ho sempre conosciuta. Ci sarà 20 anni, ci sarà. Ma non so di chi sia. No, non ne ho la più pallida idea. Certo, è sempre a vendere, non ne ha mai tirata, non ne ha mai tirata dal tetto. Tutte e quattro radiali, ma dove c'è del modello vecchio sicuramente? La Mantova 1. La Mantova 1, proprio originale. E magari non ci abita neanche più lì, quanti se ne vanno e lasciano tutto lì. Tanto perché per un motivo o per un altro lasciano tutto piazzato. O sono morti e capito. Ma c'è anche una, non ne ha più carata, ma come c'è Giuseppe che abitava nell'altra casa, non ne ha più carata, no? Non ne ha più buttata a terra, quella era buona, quella funzionava. Mantova 5. Beh, la Mantova funzionava sempre bene. Certo. Sono un bel dismesso. E adesso c'è la Grazzipoli, abbiamo una Grazzipoli, dai, per provarla, e poi me la vendo. Ma io te l'ho detto, più là, secondo come qua, adesso non ho niente intenzione. Più là volevo mettere quella senza radiale, volevo mettere, quella a me va benissimo, non me ne frega niente. E allora, quella va benissimo a tutti, tanto. Ma scricciola, ho visto che le prestazioni sono molto convincenti. Già, poi ripeto, il tempo che decide, il tempo, la pioggia, perché finché è nuovo tutti ne parlano bene, poi bisogna avere col tempo, con gli anni, capito? Con gli anni è che la pioggia e tutto il resto, cosa li fa? La bellezza c'è, però poi tanto, come la mantova finora non ce n'è, perché una mantova dopo 20 anni sta ancora funzionando. Quelle sono appena uscite, così che diamogli almeno 5 anni, diamogli almeno 4 anni su un tetto e vediamo se sono ancora così dopo. E quello è. Infatti bisogna fare tempo al tempo. Dell'alluminio ne parlano bene, però sai com'è, no? Oggi vai e fida di lui, di questi alluminio che stanno facendo, pucci. Cioè, parla per ragione già. E avevamo compreso chi dava cosa si è pigiata. Infatti non si vede nulla, la controlliamo al limite. Ma solo la base, tu, quando puoi me la avvicini e te la controllo. Ma solo la base, tu ora che mi interessa. Mi sa che mala sorta gli è successo, Antenna. Non si capisce. Si capisce nulla. Questa invece, anche se c'è l'intili un po', però qui c'è la... questa va bene, no? Non ha problemi. Chi è, ragazza? Pure se è leggermente più fina, però qui c'è la vita funzionata, qui c'è la bene. È che ho visto una cosa, gli hanno entrato, una vita da parte in parte gli hanno entrato, è logico che non si muoverà mai. Eppure l'hanno sigillata bene. Sì, aspetta. Sotto. Invece quello là sotto, gli hanno fatto male, se qua si sarebbero fatte bene strutturalmente sotto dove c'è il piede di coso, non avrebbero mai avuto problemi. Avanti. Chiappa. Ehi, è vero. Davvero? Grazie al capo, cioè. Via Roger. Cappa cappa. Qua sta bene, ma mi devo ancora peccarli un po' che. E quindi lo. Ma comunque, zio, proprio da la proposta, cioè, il portachilino, perché lì funziona, però non funziona in un'altra cosa, non si sentono proprio. Non si sentono più. Mandami una foto così capisco quanto. Capa, là, ti piace il mio forno a gas che uso per le pizze, fai nei pane, ma ti piace? Certo, ma lo devo comprare, me lo voglio mettere nel terrazzino. È molto comodo. È comodo soprattutto perché è costruito apposta quelli lì per fare queste cose qua. Capito? Poi non consumano niente, non consumano nulla, giù va tu pizza, bar, fai nidi. Poi appunto come ben visto gli ho fatto il piano rotante perché quello ce l'aveva fisso. E quello lì era stato acquistato ma andava a coso, a pellet e a legna. Mentre poi è stato comprato l'inserto a gas, che io quando voglio lo uso, o uno o l'altro anche, capito? Però quando l'ho preso gli avevano già comprato l'inserto a gas, si è attaccato alla bombola, hai visto, dietro c'è la manopola per la regolazione della fiamma, il piezo elettrico per accenderlo, ma ti gioco di zende, lui ha già 400 gradi, aumenta, arrivi subito, come niente, ecco perché è buono. Poi ho messo appunto il piatto girevole per le pizze tonde, perché sennò siccome il bruciatore è in fondo, non è laterale anche, così che te la cuoce sì uniformemente, però te la cuoce molto più in fondo, allora ha giocato il piatto girevole come ben visto e cuoce perfettamente col piatto girevole, ma qualsiasi cosa, anche la carne, qualsiasi cosa ci metti è uniforme la cottura in questo modo, capito? Perché il piatto gira. Capa, quello è anche un buon forno, perché vi pone i panni, vi pone i bici, vi pone i mercati, quando adesso me lo prenderò. La pizza me la faccio a casa, che mi compare già più. Allora, la sera che so che c'è pizza, prendo, mi faccio l'impasto a casa, me lo posso io, essendo, non penso che mi voglia la laurea, no, accendere il paretto. Cazzo, uno impara anche. Prendo il paretto, metto il sugo, la mozzarella, vero, un guiso filante che pone, e tu me la pongo il mio posto io la pizza. Secondo me cambia anche tutto il sapore. Beh sì, fatate, io come ti ho detto faccio un determinato tipo di impasto per la pizza e un determinato impasto per il pane o le passature, quelle robe lì, sono diversi impasti. Più che altro a me piace molto farli questi impasti per via dell'idratazione, capito? Le faccio anche due giorni prima io, capito? Un grammo di lievito ti pongo e poi le faccio l'impasto, la preparazione, poi me li metto in frigo, capito? Faccio poi lo staglio 4-5 ore prima appunto tolte dal frigo e mi faccio le palline 4-5 ore prima di infornarle. E un po' di cose ci vuole, è solo passione mia, tu, ci vuole solo un po' di passione, perché a fare l'impasto non bisogna fare in aleva, lo lievito, usare, boh, ho fatto l'impasto in due ore ma niente, però non è una matessi cosa quando lo fai in tempi lunghi, idratazione a 70-80%, anche 100%, capito? È tutta un altro impasto. E comunque già te l'ho detto, ti faccio il video, non puoi assolutamente sbagliare. Ma mi la ripeto, è tutto quanto per il mozzo vero. Per esempio, cosa è il gioco? Sarotti, mangiamo pizza. E obbligo mi ripeto, dottor, come si dice, mi posso bere il pasto, mi posso, alla sera si mangia la pizza in due ore e a gamba sera non sono passate due ore, no? Ma quando mi pare alle 7 al 8, alle 7 e mezzo notte sono passato un po' di poco d'ore, però la cosa è tutto fatto la stessa ore, e poi la mozzarella vero, non il soffilante che trattano. No, io la mozzarella l'ho vista anche già pronta a Julien a coso, all'Eurospi, già pronta a Julien, ti mando la foto dopo, sicché non devi comprare il pezzo intero, tagliarlo, macinarlo, è già pronta a Julien, capito? È perfetta, è fatta apposta in pacchi da mezzo chilo in barriere. Ed è ottima, Mantù, ottima tra l'altro perché, ripeto, è già pronta, non è formaggio fuso, è proprio il formaggio di Ghiddu Giallo, è proprio mozzarella. Aspetti, mando la foto. No, l'ho visto. Mi piglio, ma le faccio la manualità, Sì. Sì, è il tanto. Sì, è il tanto, me. passo, più progetto indietro. Cioè, più là, quando porto la mi voglio prendere per non farlo fare le pizze. Sì, io forniamo. Aspetta, non lo capi tanto. Il forno per fare le pizze mi voglio prendere. Per fare il pane, le pizze e tutto. Costa 300 euro. Chi è Gianni? Chi è entrato? Ginko, tu sei. Vabbè, briciola. Ciao, Brigida. È bello. Ciao tu. Ciao, mamma. Buonasera a tutti. Chi sta facendo del tuo detto? Chi è Gianni? Non lo capivo, lì per lì, la modulazione è forte, è bella. Qui, come si cucinano un po' di semenze, sta per ammazzare il tempo. Stasera a Blackstone, a chi interessa, c'è Giuseppe Masi. E qua? Via. Pennette, se vi interessa, pennette ai frutti di mare, la faccia di canno blu. Vai, vai, cucù, ma lei questa da sino troioso, boioso, boioso. Vai, puttanaro. Drogato, cucù. Ma benissimo qua, potete mangiare. E andando, beh, sono andato. Certamente che sì. E anche io pure un bel po' che non la faccio. Per mettere frutti di mare, cioè, alle cozze, a cosa. Non ho giocato pure io. Salsa da poco non le faccio. Allora me la dobbiamo vedere là. Mi sa che le faccio domani quella. Le faccio domani a mangiare forse. Io ho fatto i tortellini, tortiglioni e frutti di bosco. Buoni, buoni. Mi piacciono un po' costosi, ma erano i buoni. Papà, non è cosa da fare a mangiare. No, mi sta facendo Luca adesso io, voglio prendermi il forno a gas per fare le pizze, la fainè, ma fa tutto quanto. Pane, quanto bene. Allora, come li posso in casa le cose, me le posso. Già con la fainè ci sono riusciti a farla bene, bene, bene. Adesso col forno a gas esce più bene, esce. È migliore, cucina meglio, cucina, molto più buona. Oh, dimmi. Tocca. Eh? Ascolta, sono andato dal Pinocchio. Allora sai che tu mi hai domandato un papà dentro e capottina. Eh? E di un peso. Aspetta, ma la macchina? Sì, a pulire i dentirmi. Eh? 70 euro. Guarda, ce la vuoi fare tutta, posso da quando ho un amico. Dopo te lo scrivo al pezzo in privato, ma ho fatto tutta l'altra macchina. Dopo te lo scrivo in privato, ma c'è dei miei vado in equipo, devo vedere quanti suicidi, lucidi, lucidi, lucidi. Sono tornati a nuovo, me la tutta pulita, beh. C'è la bocchetta, era, ce l'hai vista com'era la mia, me la tutta, guarda, un mostro questo, non ce n'è. No, la mochetta è apposta, a me mi deve fare 5 sedili e il tettuccio. Non mi deve fare. Se vuoi ti giro il numero, lo contatti su WhatsApp e gli chiedi, gli offro un preventivo, dirgli che sei un mio amico. Asco, ma in caso è, tu domani sei libero? Vabbè, domani è il mio compleanno e la mia giornata sarà molto dura. Domani è il tuo e domenica è il mio. Non lo so, tu sei 17 o 16. Domani è tosta, ma sono ben impegnato, alle 11 e mezzo al barbiere, poi tra una cosa e l'altra, un po' di impegni. Uscirò a bermi qualcosa, ma roba veloce, che poi alle 8 e mezza vado come si chiama? A 140 grammi con la mia compagna. Vabbè, dai, vabbè. In caso mi dai il numero e lo chiamo io, domani gli dico quanto mi prendo. Dove rimane questa cosa? Allora, scendendo via di San Francesco, praticamente ti risulta la scuola guida di fronte, c'è una viuzza che è chiusa, entri lì ed è lì la faccio, c'è un meccanico e la faccia. Tu mandami la via su WhatsApp dopo già, vicino alla scuola guida d'Antonello. Di fronte c'è una viuzza chiusa sulla tua sinistra scendendo, lì dentro. Ho capito, sì, di fronte alla scuola guida d'Antonello, e lì c'è il magazzino a Cantonello lì. Comunque è bravo, un prendere Francesco Gambier, ma aveva tutta igienizzata la macchina, questa pompata un vapore dove c'è l'aria calda, l'aria data alla macchina. Oh, e tu devi vedere come trovo un video, sì. Certo, poi sono andato da entrare la scena, sei andato da poi da ora con la magista di Vitarello. Sono andato pure da un altro lavaggista dove c'è Pittarello. Mi ha chiesto 100 euro, guarda, non te ne fa nessuno per quel pezzo. E infatti, non vanno nessuno ma mi subisce. Guarda, Manuel, se devi fare i sedili, sedili dalla capota qua sono tipo da 60 euro, ma fatela fare tutta, ma le votate o te la pulisce, adesso glielo dico io, dai. Adesso ti mando il video, aspetta. E tu dici, accendaglielo tu che ci passo domani io. Ma tu non vuoi lavare dentro la macchina, no? Se vuoi fare i sedili e la capota e basta. La macchina deve lavare, i sedili deve lavare, sì, deve lavare i sedili. Sono macchiati, sporchi? No, macchiati no, sono sporchi. Sono sporchi, deve essere quando si caricava materiale, anche tu vai via cosa di... Non so, ragazzo, va via, trasporti di mobili, non so. E i sedili sono un po' sporchi. Ma è bianco, le curo. E infatti la voglio igienizzare tutta, sia sedile che capottina, che tu vuoi. Cazzo, ehi! Ti sono rimasto di sperma, burro. Davvero? Quando non vuoi le notti, dovrà cercare un medichino, non so. No, sta scherzando. No, è sporco come caricava roba, materiale di... cosa di falegnameria, lui lavorava in falegnameria, adesso ci caricava qualsiasi cosa sui sedili. Chiappa. Adesso la faccio pulire, infatti l'avevo fatta avere la lavaggista, ha detto sì, esco pulito, però cazzo, 100 euro. Poi sono andato da un'altra parte, 70, dal Pinucchio sono andato. Questa roba di interrotti, ma l'ha fatto questa macchina, poi l'ha fatta tutta. No, adesso la faccio pulire, se devi la faccio pulire tutti. No, faccio anche Gianni, avanti Gianni! Sì, allora. Io l'avevo portata lì alla VDVD, ma l'ha fatta igienizzata, c'era un profumo di limone quando me l'ha data. La VDVD dove già? Al rifornitore, ma ti parlo già di tanti anni fa, non so se lo fanno ancora. La Murcia? Ehi. No, non c'è più, no. Non la fanno più, loro adesso mettono benzina e basta. È già tanto che ti controllano l'olio del motore. Ma lo facevano, visto, me l'hanno fatta a fianco dove c'è la cassa lì. Avevano questo attrezzo, l'hanno buttato questa roba perché dovevo andare a prendere mia moglie che va partorito e prima di andare a prenderla me l'hanno fatto fare, capito? Ma non la Murcia, allora tu stai dicendo l'altro, il primo rifornitore per andare verso le luci gialle sulla destra, quello sì che lo facevano, però non si sa se lo fanno ancora, è già una ricca studia, che c'aveva anche l'autolavaggio lì dietro. No, Murcia, è Murcia. Quello di Unida, lo so, non è più Unida perché l'ha preso uno di Portatore, già adesso il riproduttore. Che faceva anche con Mista c'era prima, dicevo qua vedere le casse di 40 anni fa. Sì, c'era Pietro, fratello, sì, me lo ricordo bene, un amico di Pietro. Ma non ci sono più, peccato perché non l'hanno voluto lasciare quel rifornitore, se no lo prendevano fra i figli, invece non l'hanno lasciato, capito? Quel rifornitore era bello sì, perché c'aveva tutto. Facevano cambio dell'olio, ti cambiavano le gomme, tutto faziale, per le officine. Sì, è vero, io più di una volta anche la gomma, le gomme alla moto cambiate. Sì, giornali cacciugli. Ma non è da molto che le hanno dato, quanto sarà? 4-5 anni? Non lo so. Un attimo che mi assento già, ripeto con Antonio. Ma io volevo ricordare che fino a 15 anni fa ancora andava. Il rifornitore all'entrata sulla sinistra, il primo rifornitore, l'ha preso quello lì. Chi è che l'ha preso? Gigi, quello che c'è a Porto Torres. Porto Torres è praticamente c'è il rifornitore all'entrata in Porto Torres, il primo rifornitore che trovi sulla sinistra entrando a Porto Torres. Ma chi in via mare? Torra, via Sassari, come entra a Porto Torres? Ah sì, via Sassari, sì, proprio all'ingresso, lì ho capito in lo stesso. E io. E adesso non so se c'era ancora lui, l'aveva comprato lui. Chiaro, però quello che c'era Murgia mi sa che c'era la figlia, cioè. E lui poi stava con una tipa giovane, eh. Chiaro, mi sa che era la migliore, mi sa che di Murgia. Ma lui non è del morto, eh. Chiaro. Io sono, vabbè, non è che li voglia nulla, io sono, abbiamo comprato l'anno fa, ho introdotto Baramotto, scatto papà padre che c'era del 2016, l'acqua che c'è un vecchio, era, non li voglio nulla, però. Magari l'imbottigliamento, la confezione che hanno fatto quell'anno lì, ma l'olio magari non ci guasta, tu. Dopo un po' di anni non è così, il problema della macchina dopo un po' di anni non può restare più di quel posto, se no già non va più bene dentro la confezione, capito? Mi sembra che dopo 3-4 anni non può più stare. Ma chi ce l'ha vecchio? Non rimane nulla, però. Sì, non è che perda la viscosità ce l'ha lo stesso, però se non è stato sfruttato l'olio, la viscosità ce l'ha. Sì, no, io ce l'ha, è stato per l'olio per due tempi, per la miscela. Avete visto che già non è successo nulla, ma ci ho visto. Ma lo devi fare tu la miscela adesso, no? No, c'è un miscelato automatico. Ah, ho capito, come nel Vespone, E in certo modo la devi fare tu, perché tipo le Vespe e roba così, la devi fare tu la miscela. Dal Vespone in poi se la prenderò da solo, capito già. Ma la mia c'era automatico, cioè li metto l'olio e se la prendo da solo. E ogni quanto lo devi mettere l'olio, ogni quanti piedi? Guarda, quando ero trova niente a Porto Torres, ho fatto 4-5 viaggi e mi ha segnato la spia. C'è stato un litro e mezzo, c'è stato. Che a terra ti costa un me farmi il pieno la volta. L'olio solo costava una carina. Ma ora non mi dura parecchio, ne avevo preso già anche ancora quello di San Rocco, ti puoi immaginare già. C'ho ancora quello che ho comprato a San Rocco. Ne avevo preso 4 litri, ne avevo preso, là, questo era quello che era andato dalla barba. Non ne ho ancora. E vabbè, lo consuma, se viaggi consuma. Ma di benzina, ragazzi, il mondo, zinco era ogni addanto. Cioè, se la uso, dipende quanto la uso, massimo che ci metto 5 euro a me. Se no, non è che, non lo consuma. Ah, ecco, Luca va. Ma Luca si è già segregato. Non c'è proprio sintetico uso, no? Non è durato un mondezza, no? Il casco racing sta usando. Io usavo Repsol nella Aprilia che ci avevo, nell'SR. No, io uso, dipende, il casco racing o Barbal, utilizzando. Qualche volta ho messo anche quello Eni, ho messo Agip da Eni. Sì, e poi basta che abbia lo stesso valore, è sempre uguale. Comunque l'Aprilia consiglia il Repsol. Vabbè, a consigliare quella cosa, però io ti dico una cosa, il Barbal è buono, ma insomma quando metti il Castrol Racing la moto cambia dal giorno a domani. Il Castrol è buono. Proprio senti il motore tirare, senti, il motore che tira. Lo lubrifica bene. Non so cosa cazzo ha quell'olio in mezzo, ma è fantastico, senti il motore andare proprio. Ma l'ha truccato? Cosa? Truccato il motore? No, c'è solo il variatore, c'ha. E Rudy non è cambiato? Eh certo che sì. Cosa gli ha messo? Quelli da lungo? Dovrebbero essere a lungo, cioè, però la pressione è modificata, cioè quello che esigiamo. Sono malussi, sono. Io ho conosciuto lui da lungo nell'SR e ha perso la sozzatura e poi ce ne ho fatto e il variatore e poi se quindi che tu camminava il rettilineo faceva quasi 100 e stavo se cammina la tua andata a amare a succe. Io andavo a Porto Torre, se mi con le serre, è una delle prime moto che ho avuto, l'ho avuto, sì, e poi le serre. Ciappa, ma vanno bene, vanno, guarda. Molte volte compare una moto che, a me mi va bene quella, mi va bene già, a me mi va benissimo quella. E quando prendo la macchina, mi lascio con quella lì, me la portare, non la prenderò mai. Perché a me mi va bene, non me la frega un cazzo. E per fare le commissioni veloci va bene la moto. Io quello che mi sono pentito poteva averla venduta perché quando devo fare documenti e roba già sono 3 ore a cercare parcheggio. E invece con la moto parcheggiavo dove capitava, andavi, facevi le cose e poi te ne andavi. Allora, ma guarda, preferisco quello di 3.050, preferisco. Molti 125, no, lascia stare quella, leggera, la metti, ci sta dappertutto, ci sta, non me la frega niente. Io c'avevo 400, però se poi facciamo strada lunga, io preferisco il 400 perché è una moto già, da cammina, quasi 160, 165. Ma già cosa ne piglia qua? Tanto la prima mi devo pigliare là mi devo pigliare. E cosa? No. A me mandate chissà. Dice per 125 sì. Molto più pesante a farsi nel magazzino, ecco, ma da quanto mi andate chissà. Diciamo magari più in là, li metti 70, li metto. Le rifaccio bene il motore, che io me ne prego, io sono un signore. Mi manda a pigliare molto, non lascia perdere. Ma è peggio, tanto lascia sempre il tempo che trovano, ti grippano e poi si punta a capo, là sono i pezzi originali. Tanto quelli truccati ti grippano pure. Se tu vuoi pezzi buoni devi mettere di R, io se ti vuoi amici miei lo mettevo alla Vespa e pezzi che grippavano sempre. Cazzo facevano anche 120 con la Vespa, però poi i pezzi si asciugliano. Il papà perché erano imbecilli loro, non sappiamo il mamma. No, faceva il meccanico, mica le facevano loro. Sì, qualcuno ce l'ha fatta a lui, ma la maggior parte la portava da Mariani. Ah, la biglietta, cioè se tu li fai una miscela. Allora, quello che sbagliano molti è di truccare la moto e mandare la trasformazione, non vuole truccata, però fatta in modo che non abbia problemi, capito? Sì, la modifica va fatta, però deve avere una tolleranza in modo che i pezzi durino anche nel tempo. Non posso fare una moto che fa di zento quando i grippi sono pezzo. Poi faccio una moto che fa una volta ma mi dura molto di più il motore. A Sacro Cuore c'era ai tempi miei, che quando io avevo 18-19 anni, c'era una Vespa che faceva i 130 e aveva i pezzi 175, cazzo, aveva il cambio, le marce della Lambretta, più lunghe, ma bella, mi era fatta bene, era più metallizzata, con sedile German, me lo ricordo ancora, Marmite SS, manubrietto 90 SS, bellissima come era fatta, le ruote del primavera. Ora la prossima che fanno, non puoi avere un motore preparato per tenere un faccimuglio che per carità di Dio fa schifo, fa. E non ti tempo di mollare. Ma se ne correvano libretto in libretto al chilometro, se te lo ricordi tu, forse di piccolo ancora. Se ne correva, con il libretto una persona, chi vinceva si prendeva la moto. Facevano le gare, libretto in libretto, io ti auguro libretto in libretto. Allora, un attimo più in base. Voi però io ti rubo a zia. Ma perché erano fissati, li viaggi a truccare e fare. Io guarda, me lo ricordo come se fosse oggi, che c'era Lucifero, che non chiamava nemmeno, si chiamava Angelino, camminava con la moto, cambiava le marce con i piedi. In più si metteva in piedi sul sedile mentre la moto camminava, la faceva andare da sola, faceva un po' di acrobazie. Sì. Allora veniva fissato con queste cose. Venivano un po' fissati con queste moto così. Però il babbo era truccata, era. Certamente l'ha portato via. E cosa aveva piccato? La prima non era piccata, era un'altra. Ma a me mi piace la Vespa 50 specie, era normale, quella lì mi piace. Con le ruote del Primavera e la sella lunga, così mi piace. E lì c'è la tigga. A me non piacciono le piccate. C'erano anche quelle elettroniche. Cappa, tu sei molti ragazzini, si poveri che sono fissati, si poveri che ci vede, intendi non scende, al primo chilometro che fa, non è che ti ingrippano che altro fai, ma tu non puoi andare a comprare la moto da 5 euro, cioè con i besti truccati, dai, io non la 20 euro, manco, c'è poi che ti duri la moto. Lo so, ma ragazzi i soldi non ne hanno, la fanno come ci hanno i soldi, pagano i pizzi, se hanno pochi soldi fidano i pizzi di campo e li durano da Natale a Santo Stefano. Ma guarda come stanno i maccotti, ma guarda anche quei pezzi normali li fanno di parte mare, secondo me li usi grazie a tutti di marapete. Io nel sito avevo il sito. Marmita? Io. Sì, perché non la conosce la marmita il sito? Serpentone c'avevo, dopo che camminava con quel serpentone. Rialzata però era più lenta, innalzata in lui faceva poi fatica, ma poi come avevo fatto il lavoro tra motore, guarda. Cappa. Poi comunque io comunque mi accorgo sempre. Guarda, secondo che non li ho messi, cazzo, la moto non va, cazzo, non va. Perché un giorno ci ho messo olio di ghisi, mamma mia, non ho più comprato. Ecco, non l'ha preso altro, non mi ha preso, perché non lo trovo niente, ecco, non ne avevo altro, ci ho messo quello. Ucci, mai più. A me dopo mi hanno avvisato che me la volevano fare la moto, mi ha detto vedi dire già che te la volevo curare chi è, e non ti posso dire chi è, ma vedi dire che se no te la avanzi niente. Ho preso, me l'ho venduta, io sono andato a detta 3 o 4 lire l'anno fatta. Non me l'abbiamo guardata, che l'abbiamo controllata da molte. Tanto io la moto la mettevo all'entrata del portone, non ne avevo di garage. Facevo tre scalini, la portavo fino a su e la mettevo all'entrata del portone, quindi già lì loro la potevano fregare come volevano. Non bello, bravi un coso, ma la famiglia, ma l'avevo detto, se tu mi negare, l'avevo detto, però mi devi negare, anche tu mi ci dici una cosa che non va bene, ok. E intanto io con i soldi della moto mi avevo comprato la 500, quindi avevo la patente, quindi devo comprare la macchina, quindi io con i soldi che mi ha dato della moto mi sono comprato la 500 a seconda mano. Ho fatto bene. 5,95 Giannini, e poco camminava. E ce l'ha avuto a medi anni? No, un medi anni, ma perché poi si era bruciata la condizione della testata e la testata ce l'aveva cromata, non si poteva manco spianare né niente. E mi ha detto che per metterla a posto bene preziose perché era anche stata cromata questa bomba di vino. E mi ha detto, guarda, ti conviene versare e comprarti un'altra macchina per spendere tutti quei soldi. Le ha messo una testata normale ma non rendeva più, non rendeva. E l'ho data, l'ho versata, allora c'era come cacchio si chiami, sopra di lui, Silanos. E mi sono preso 127 a benzina, dopo camminavo con lui. 127 è già una fattoria. Aveva uno spunto con la macchina allucinante. Ma cos'è? Ma credo a cosa? A Daria, sì, perché lei era le migliori, le persone non poteva cagare. E a Daria non ne aveva niente. L'unica cosa che succedeva è che quando pioveva l'umidità entrava nella carrozza lo spinterogeno e ti ci fermava la macchina, poi tu ti fermavi, aprivi la carrozza, la asciugavi con uno straccio, la rimettevi e facevi il primo gol. Adesso, grazie. Qualcosa di isolante c'era voluto. Però andava la macchina. Se andava, camminava a me. Ma il motore era molto più spinto quello. Era come quello del 112, ce l'ha presente quello del 112, era lo stesso motore. E praticamente io l'avevo fatto tutta rigidata, l'avevo messo il volantino nuovo, il cambio delle marce basso, era tutta fatta particolare, rotte larghe. Va bene, vabbè, da vivo. Ma con la 127 o 126? 127. Quella lì già lì andava. Aveva un motore brillante, camminava un bel. Solo che avevano di difetto la guarnizione della testata con le macchine di lo stesso, come 112. A me non mi è mai partita la benzina perché l'ho distrutta prima, ma comunque aveva di difetto la guarnizione della testata che si bruciava. La macchina come camminavano, poi ce l'hanno fatte bene con rotte larghe, erano belle anche da vedere. Mi ricordo che le viti dei fari erano di plastica, a volte svitando si spaccavano, cosa facevi? Scaldavi la punta del cacciavite, li facevi il tacco e si svitava quella vite, ti potrebbe dire chi sa lui. Erano i tempi che facevano così, poi è già andato tutti i dicembre, ma no, erano quei tempi lì, erano. A quei tempi andavano 112 a parte 127, il 128, che camminava con me lo stesso, c'era mio cognato il 128, a volata. Erano macchine che andavano allora. Perché è morto il tuo cognato? Sì, mio cognato, sì, bombe di anni già, il marito di mia sorella era morto di leucemia. Sì, ho capito, via. Gatto, mi ricordo. E c'è un 128, ce l'aveva comprato, nuovo, nuovo, era a casa, aveva messo lo stereo attaccato per non farselo vedere sotto il sedile, ce l'aveva buttato nella stecca del sedile, l'aveva attaccato con una staffa, quando voleva tutto ascoltava sempre quella radio, lo accendeva e ascoltava la radio, la buca giurava e non si vedeva nulla. Poi anche allora ne curavano un bel di sedere. È morto moltissimi anni fa. Sì, quello del gatto. No, lo so, ma sì. E il coso, il tasto verde della Philips, non so se tu l'hai conosciuto, quello lì era il più rubato che c'era. E ma non ha avuto un barone, non è sempre andata bene. E ne rubavano un bel, spaccavano il vetro. A me una volta avevano spaccato il vetro per rubarmi l'accendino, un pacchetto di sigarette e nei nastri, il nastro di Battiato c'avevo, che mi piaceva un bel a me. E l'hanno rubato quello lì, le sigarette, l'accendino, cazzati. Se l'avevi saputo me l'aveva regalato. Che stronzo io. E ti facevo un po' di danno, ma nulla. Però è sempre andata bene. Qualche tu mi ha pigliato un colpo su se, ma non finiva. Sì, mio cognato l'aveva beccato uno dentro la macchina e tira sagomato. Mio cognato è alto 2 metri quasi, 1,98 metro mi pare che sia. sono andati al cinema all'Ariston ancora quando era aperto, all'ultimo spettacolo con mia sorella. No, c'è la macchina mi ha cambiato il cappello. E la macchina era nuova, era l'R5 GTS, che l'avevo appena ritirata, ce l'avevo una settimana per fare. Sono andati al cinema, sono usciti dal cinema e lei gli ha detto, Marco, ma quello lì nella macchina da sì, c'è un tipo dentro, com'è un tipo dentro? È andato al vicino sportello, ti recuto là su, ci ho detto, devo ringraziare solo che mi veni a Mari, a pigliare cosa a cazzuttarlo. Dopo gli ho preso, gli ho detto, adesso mi dai documenti, domani, nemmeno stracciato i pannelli, perché allora si usava lo stereo, li mettevi le casse dei pannelli, li ha stracciato i pannelli per rubare le casse. E ha detto, domani adesso tu, se non mi paghi tutto quanto, io sto andando in questura e gli dico, guardi, mi hanno rubato questa roba, ho trovato la carta d'identità dentro la macchina. E lì domani si è fatto trovare, gliela